esattamente quelle che dovrebbero essere. Molto spesso ci sono anche dei ritardi per avere dei risarcimenti danni da parte dello Stato, dei tempi lunghissimi. Questo a delle piccole imprese, ma anche a delle medie imprese come la mia, creano ovviamente dei grossissimi problemi. Molto spesso si finisce dall'estorsione all'usura, e poi mettere chiaramente in condizioni le forze dell'ordine di avere mezzi efficienti, benzina, di pagare a questa gente che fa ore infinite di straordinario. Nonostante le difficoltà, la Focacceria San Francesco è pronta a varcare i confini nazionali, con l'apertura di filiali in Europa, America del Nord e del Sud, Medio ed Estremo Oriente, la Sicilia, l'Italia libera, che non abbassa la testa, fa il giro del mondo. Italia in controluce. La seconda traccia di Italia in controluce parla di biblioteche che rischiano di non sopravvivere. Cristina Carpinelli. La biblioteca di Casale Ponte di Nona a Roma chiude. Mancano i soldi. Era stata aperta nel 2006 da un gruppo di detenuti ed ex detenuti di Rebibbia. Era frequentata da ragazzini, bambini, nonne, mamme, insegnanti, studenti. Aveva dentro 7.200 libri. Li avevano portati i cittadini, regalati i più ricchi, erano stati passati loro i testi più logorati delle biblioteche del centro. Nella periferia, dove sorge la palazzina dei libri, non c'è altro che questo. È il posto abbandonato da tutti che i cittadini si sono ripresi, e ora che hanno creato qualcosa, nessuno li aiuta a sostenerlo. Quanto serve per tenere in piedi questa biblioteca? Noi abbiamo chiesto al Comune di Roma e anche alla Regione di avere per gli stipendi di una biblioteca professionale che guida una bibliotecaria professionale che guida il gruppo di lavoro composto da tre ex detenuti e detenuti in misura alternativa, più le utenze della biblioteca che sono importanti, dall'affitto fino ai telefoni, alle cose insomma necessarie per la vita quotidiana, 45.000 euro per un anno. Sono praticamente una piccola goccia, ma per il tipo di attività che noi svolgiamo e per il tipo di contesto, noi qui dove siamo riusciamo a fare durante la bella stagione spettacoli teatrali all'aperto, cinema all'aperto, abbiamo un giardino abbiamo organizzato varie iniziative per i bambini di intrattenimento, abbiamo creato d'estate dei punti di raccolta con le piscine all'aperto eccetera per i bambini, per le mamme, per le nonne. Insomma, questo è un centro di promozione culturale che ruota intorno alla biblioteca, ma è anche un centro di attività ludica per i bambini. Mo, chi vive nelle periferie riesce a capirlo immediatamente, insomma, l'importanza di questa cosa. Chi vive dentro gli uffici delle amministrazioni purtroppo non riesce a capirlo. Vittorio Antonini è l'anima di questo posto e senza tregua continua a battersi perché non chiuda. Lui, che di disagio, criminalità e recupero ne sa qualcosa, in quanto detenuto di Rebibbia, non vuole che questa periferia resti nelle mani del nulla assoluto. Chissà se il sole illumina con piacere queste strade del malumore, queste facce senza colore che ci sono qui da noi. Siamo qua anche se qui nessuno ha deciso di viverci. Che noi siamo in una situazione, 6 chilometri fuori da raccordo anulare, per chi conosce Roma, è proprio l'estrema periferia dove insomma non arriva nient'altro molte volte, o comunque arriva molto poco, e predominano molte volte muretti, siringhe e centri commerciali. Noi siamo un'associazione nata dentro un carcere nel 1996, spesso sono un detenuto in semilibertà in carcere dal 1985, e creare un ponte tra noi e le realtà dei cittadini, soprattutto delle realtà periferiche, dove veramente la cultura fa fatica ad arrivare. Tutti dicono portare la cultura in periferia, centrodestra, centrosinistra, però quando poi dopo si tratta di farlo concretamente preferiscono magari spendere molti soldi per una settimana, anche belle e piacevoli, di estate romane dentro qualche quartiere della periferia, ma poi lasciare per gli altri 360 giorni dell'anno, lasciarlo quasi completamente vuoto. Ed è quello che succede non soltanto in questa periferia, succede un po' in tutte le periferie delle grandi città. E tutto, era la seconda edizione di Italia in controluce. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.